Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sorpresa, ora ve la spiego. Allora, con un po' di ironia, cari ascoltatori, naturalmente eccoci, bentornati in ascolto, benvenuti in ascolto se vi sintonizzate adesso su Radio 24. Attenti a noi due, come avrete capito, era esattamente la cosa che ieri non ci è riuscito di mettere a fine trasmissione. Un saluto al nostro Alessandro Milan, torna sta casa spietta a te, con un po' di core strappato napoletano. Questa settimana non c'è, in vacanza, mi sembra il minimo ricordarlo a nome di voi tutti ascoltatori, che molti avete scritto metà dicendo torna, tornato, l'altra metà dicendo ah, vai in vacanza, bravo Lino Milan. Allora, oggi 14 giugno, il rituale dei santi del giorno. Vado un po' più rapido perché abbiamo molti argomenti oggi in trasmissione. Santi come Sant'Agapito, Sant'Anastasio, San Felice Digna, San Cipriano di Antigny, Sant'Eterio di Vienne, San Fortunato di Napoli, oppure San Gerboldo di Evre, diplomatico di Carlo Magno, uno dei tanti santi ricchi e potenti, e Santa Teopista martire. Ecco, Santa Teopista, io non ho mai conosciuto una di Teopista, ma mi piace molto. Oggi è la giornata mondiale, direi io, dei contribuenti. No, è la giornata mondiale dei donatori di sangue, cioè di noi contribuenti, però è la giornata mondiale dei donatori di sangue, una grande battaglia civile, e grazie a tutti quelli che lo fanno, a dire la verità. Pensate che in Afghanistan oggi è la festa della mamma, e io speriamo che con i guai che hanno da quelle parti da moltissimi anni davvero ci sia qualcuno in grado di festeggiarla serenamente. Negli Stati Uniti invece è la festa della bandiera, il Flag Day, cioè l'anniversario della fondazione nel 1775 del US Army, cioè dell'esercito americano. Mi piace ricordarlo anche perché, come ovvio, i giornali oggi sono giustamente pieni per pagine e pagine ancora delle code della strage terrificante a Orlando, la strage islamista di un gruppo solitario che ha perso il controllo per i suoi pregiudizi contro i gay, è andato in un locale per gay, ha fatto 50 vittime. E mi pare però che, malgrado gli sforzi dell'informazione agli italiani, di questa cosa mi importata assai poco. Mi sbaglio, ma credo che sia assolutamente così. Oggi, tra le cose da ricordare, è che l'anniversario, nel 1966, pensate, il Vaticano la fece finita con l'indice dei libri proibiti, che era nato secoli e secoli prima, solo nel 1966. Nell'indice dei libri proibiti, non faccio polemica anti-ecclesiale, però ci sono finiti personaggi come Galileo, Copernico, Dante, Foscolo, Leopardi, Machiavelli, Guicciardini, Montesquieu, Pascal, Voltaire, Spinoza, Zola, Kant. Ecco, è finito solo nel 1966, pensate, l'altro ieri, tra un po'. Tra chi fa il compleanno oggi, auguri a Rutelli, auguri a Guccini e auguri a Donald Trump, visto che uno dei due candidati e frontrunner per la presidenza insieme a Hillary Clinton fa gli anni proprio oggi, 1946. Allora, la domanda che vi faccio subito, cari ascoltatori, per intervenire in diretta all'800240024, è relativa a quello che mi sembra un paradosso di oggi. Ci sono alcuni giornali, a dire la verità tutti i giornali titolano in maniera molto enfatica sulla vittoria dell'Italia agli europei contro il Belgio ieri. Il Corriere della Sera dice: distrutto il tanto temuto Belgio. La mia domanda, cari ascoltatori e ascoltatrici, è questa: possibile che con il Brexit che arriva la settimana prossima, il 23, il voto che c'è in Spagna il 26, le due cose potrebbero far saltare in aria l'Europa, l'Italia che perde ogni giorno sui mercati, siamo il peggior mercato borsistico dopo la Grecia, perché siamo i più esposti di tutto se parte di nuovo la danza dello spread, Orlando e la strage negli Stati Uniti e l'islamismo che resta tra noi, possibile che di fronte a tutto questo l'Italia resta poi di fronte a, convinta di fronte agli europei di calcio, che noi abbiamo battuto uno squadrone, il Belgio, e questo sembra notizia fondamentale? Ecco, ve lo chiedo, non c'è un qualcosa che non funziona nel credere che sia questa la notizia fondamentale? Io ve lo dirò fuori dai denti, la cosa che mi colpisce di più di questi europei di calcio è quello che ha scritto oggi sul Foglio Franco Pace. E il titolo ve lo leggo: non solo calcio, in Francia va in scena la rivincita delle nazioni, menarsi a Euro 2016, c'è qualcosa di rancido nel ritorno al nazionalismo che abbiamo visto a Marsiglia, messa a ferro e fuoco dai militarizzati tifosi russi. Ecco, allora, non c'è qualcosa di sbagliato nel fatto che siate convinti in tanti di voi che l'Italia ha distrutto il tanto temuto Belgio? Ma che cos'è il Brasile di Pelé, per quanto forte sia il Belgio? Allora, questa è la domanda, e detto tutto questo, andiamo all'inizio della nostra trasmissione a fare il periplo delle grandi città italiane in cui si vota. Ieri abbiamo parlato per Torino, del ballottaggio di domenica. Oggi parliamo di Napoli ed è con noi il direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Grazie di essere con noi, direttore. Buongiorno Oscar. Che piega ha preso? È già un risultato consolidato, scontato, quello di Napoli al ballottaggio? Sì. Ma c'è un vantaggio molto forte, come sai, 42 a 24, insomma è una sfida proibitiva per Gianni Lettieri, che tuttavia sul terreno delle alleanze in questi giorni certamente ha recuperato più alleati di quanto non abbia fatto De Magistris, quantomeno nelle trattative cosiddette non ufficiali. Il PD, come sappiamo, non è andato al ballottaggio e ampi spezzoni renziani del PD sono confluiti nel cartello di Lettieri in maniera ovviamente sotterranea, perché la dichiarazione di voto ufficiale avrebbe in qualche modo urtato un po' qualche sensibilità. Allo stesso modo anche NCD, che tuttavia non ha avuto una grande performance elettorale e si è alleata invece ufficialmente con Lettieri. De Magistris ha preso qualche spezzone dei riformisti, cioè di quell'ala del PD minoritaria, e soprattutto poi ha cercato ancora di consolidare i suoi contatti con il mondo grillino, che però già al primo turno aveva votato per lui sostanzialmente, visto che il candidato di 5 Stelle è arrivato al 9%. Sembrava un calendario ombra, per così dire, messo apposta un po' per favorire questa migrazione. Un calendario ombra anche perché i due candidati non si sfidano in confronti diretti, in quanto De Magistris si rifiuta il confronto. Noi domani al Mattino faremo una sorta di confronto differito che poi metteremo insieme in onda sul sito alla stessa ora, ma registreremo due forum separatamente, prima con Gianni Lettieri e poi con De Magistris, per espresso rifiuto del sindaco a confrontarsi con il suo rivale. E questo, assieme a una campagna elettorale molto velenosa, un po' segna il tratto della sfida in questa città. È l'esatto contrario del fair play di Milano, dell'educazione dei candidati, dove Sala schiera Bonino e Linus, e Parisi dice bravo, hai fatto bene, senza allusioni. Davvero, questo è vero, mi piace che lo cogli questo aspetto. Però ti chiedo, io ho avuto l'impressione nell'informazione nazionale che la sconfitta del PD, terribile da questo punto di vista, non venga scritta a Renzi, come se la Valente fosse indipendente dal premio. Ma è corretta questa lettura secondo te? No, non è corretta. Indubbiamente Renzi ha sbagliato a Napoli, e credo che lo abbia anche ammesso quando ha detto abbiamo sbagliato tutti. C'è stata una presa di consapevolezza tardiva della necessità di recuperare un rapporto e una narrazione della città, per cui nel frattempo Bassolino era già in campo, come sappiamo, in quanto Bassolino ha iniziato la campagna elettorale ad agosto, e poi c'è stato il pasticcio delle primarie che Bassolino ha usato per sostanzialmente, in qualche modo, uso una metafora forte, ma avvelenare i pozzi, avendo perso lui le primarie, ha deciso che anche il candidato che le aveva vinte non dovesse avere la chance di vincere le elezioni, e quindi è prevalsa una logica di confronto, di sfida personale all'ultimo sangue, e questo poi ha prodotto questo risultato. Ma certamente Renzi non ha capito per tempo che cosa poteva essere questa polveriera. Esatto. In qualche modo l'errore anche. Forse cinicamente gli conveniva pure lasciare Bastone in campo, che almeno nessuno gli avrebbe scritto. Però questo è un mio commento. Intanto grazie al direttore del Mattino, che so che alle 8.30 precise, e noi siamo stati puntuali, lo restituiamo ai suoi impegni. Dico ai nostri ascoltatori che vi segnalo su questa, tra virgolette, deriva napoletana campana, però due articoli, uno sul Corriere della Sera di oggi, che spiega la singolarità del sindaco di Napoli De Magistris, che ha impegnato addirittura con una delibera scritta la sua giunta contro il referendum istituzionale d'ottobre. Fin da adesso ho fatto una delibera, trovate un articolo scritto da Fulvio Buffi che vi dà ampiamente informazioni sul fatto che si è schierato contro il referendum a ottobre, fin da adesso, ripeto, con la delibera. E poi c'è un altro articolo invece su un'altra singolarità, sempre la sinistra campana, in questo caso la giunta neoformata a Salerno, che è l'espressione diretta personale del presidente della regione De Luca, perché è una giunta a seguito della stravittoria del candidato pura proiezione di De Luca a Salerno, nuovo sindaco. Si forma una giunta con 5 assessori uscenti in realtà di De Luca, in cui c'è il figlio di De Luca, uno dei due figli di De Luca, perché in realtà i due figli di De Luca, Roberto e Piero, uno di 32 e uno di 36 anni, il primo appunto diventa assessore, il secondo studia per diventare parlamentare. Su Repubblica c'è un bellissimo articolo di Concita Sannino che descrive questa trasformazione dell'Italia, in questo pezzo d'Italia, in che cosa? In quello che è nel Centro America, nel Sud America, insomma il potere dei caudillos è così, ereditario. Naturalmente dice De Luca, cosa c'è di male? No, se non c'è di male nulla ai suoi occhi, se i suoi figli di 30 anni hanno diritto acquisito perché sono bravi politicamente, non perché sono suoi figli, cosa volete che vi dica? Non c'è niente da aggiungere, ognuno è libero di pensarla come vuole. A me sembrano segni di degenerazione della politica italiana. Il personalismo caudillista è una cosa che non mi piace, magari posso sbagliare da questo punto di vista. Torniamo dopo la pubblicità. Mattino. Ed eccoci tornati in diretta, non da cari ascoltatori, ad Attenti a Noi Due, che questa settimana vede solo Oscar Giannino e me, perché Alino Milan si sta ritemprando in vacanza e torna con noi presto, naturalmente. Alino, ma riposati. Allora, qualche rapido cenno prima di sentire, sentiamo subito Nanni da Vibo Valentio, che ci ha chiamato sul tema che avevo lanciato, ma non stiamo come al solito esagerando. All'inizio degli europei, distrutto il tanto temuto Belgio rispetto ai guai che abbiamo intorno a noi. Nanni da Vibo Valentio, come la pensi? Buongiorno Giannino, auguri per la piccolina. Grazie infinite, Nanni. Ma noi siamo fatti così, l'Italia è questa. Tu dici, io vivo in Calabria, questa regione sta affondando peggio del Titanic. Esatto. E non vedo nessuno per strada, non manifesta niente, tutto inerme, tutto scorre come un enorme gregge di pecore. Si accetta questa cosa, però siamo pronti a mobilitarci per il pallone. Venerdì che l'Italia gioca alle 3, ma io mi aspetto una caterva di certificati medici. Mamma mia. Allora, lì a Roma, Giannino, hanno avuto il buon gusto di proclamare lo sciopero e ci rimettono sulla busta paga. Allora, in altri tempi avrebbero mandato il certificato. Nanni, su questo tema, visto che hai tocchi un punto su cui sono molto arrabbiato, due segnalazioni su questa storia dello sciopero all'ATAC ieri sera a Roma. Cari romani in ascolto, ma giustamente oramai è diventata una storia nazionale. C'è su Corriere della Sera un bellissimo pezzo di Sergio Rizzo che vi spiega perché in realtà c'è stato poi lo sciopero ieri sera, anche se è stato poi spostato a mezzanotte. Perché a maggio il sindacalista dell'UGL che l'ha proclamato, a maggio non gli era stato pagato lo stipendio di maggio, ritenendolo assente ingiustificato dal lavoro. C'è stata una contestazione sui permessi sindacali. Per questo nasce lo sciopero di ieri all'ATAC. Incredibile a dirsi. L'articolo di Sergio Rizzo, leggetelo, perché vedrete come sta salendo verticalmente il picco di guasti giornalieri all'ATAC, che sono stati a maggio, a giugno diventano 559 al giorno invece di 463 di maggio. Al Messaggero invece, sempre su questo tema, la notizia per la quale Rettighieri, che abbiamo sentito ieri con noi, colui al quale il commissario Tronca ha affidato il compito di tentare di risanare fino a che arriva il nuovo sindaco nel possibile l'ATAC, ha deciso di portare in procura i dossier sulle norme nomine, perché ci sono decine e decine di, non delle nomine, perdonatemi, delle assunzioni. Ricostruendo le assunzioni negli ultimi anni in Ataque, c'è una parentopoli di sindacalisti interni e io batto le mani alla decisione di Retti ieri di portare queste cose in procura. Sentiamo ancora Francesco da Cosenza, che ci chiama sul tema. Non è che stiamo esagerando, abbiamo distrutto il Belgio. Francesco, come la pensi? Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori, tra sì. i quali mi annovero. Grazie. Volevo semplicemente dire che talvolta lo spirito umano riesce a diventare anche protagonista della carta stampata, perché abbiamo bisogno di respirare, fosse anche un'illusione, fosse anche l'Italia che sconfigge il Belgio, che nel ranking mondiale è una delle formazioni più temute. Viva Dio che ancora no, esiste lei, qualcuno. Capisco. Lei dice che ci dà la possibilità di respirare, perché passiamo da una strage omofoba ad un atto di terrorismo presunto tale, ad una Calabria ingessata. Cioè diventa un mazzo di carte che mischia tutto quanto e massacra lo spirito dell'essere umano. E quindi lei rivendica naturalmente il diritto a una sana boccata attraverso lo sport, una sana boccata d'ossigeno. Può essere, secondo me, io la trovo un po' esagerata nei toni, ma questo credo che giustamente fa un po' parte del carattere nazionale quando c'è la nazionale di calcio. Del resto meglio questo che poi chi ha gli hooligans che spaccano le città sulle nazionali di calcio. Paola da Roma come la pensa? Una signora, mi fa piacere che chiami su questo. Buongiorno, grazie innanzitutto. Niente, no, non sono assolutamente d'accordo con il signore, che ovviamente di cui rispetto chiaramente il punto di l'idea vista. E assolutamente. Ma non so se avete avuto occasione questa mattina di imbattervi nelle interviste di Sky TG24, praticamente intervistavano gente che dopo aver assistito probabilmente a dei maxi schermi, perché erano in delle piazze, tifosi italiani, i posseduti, indemoniati, sembrava che avessimo conflitto l'ISIS. Esatto. 5-3-4-8 ho riaddrizzato le sorti economiche del paese, mondiali. Lo eccetera. So Paola, forse siamo minoranza a pensarla così, però io ti ringrazio di aver portato questo punto di vista, che non voglio qualificare come femminile, perché ci sono tanti uomini che la pensano così, ci sono tante donne che la pensano così, però ce ne sono tanti anche come l'ascoltatore che ti ha preceduto, e quindi bisogna equilibrare. Io vorrei solo che l'informazione, al di là di come la pensano gli ascoltatori, i telespettatori, l'informazione avesse toni meno enfatici. Ripeto, non abbiamo spaccato i campioni del mondo. Sì, lo so, il Belgio è diventato una squadra che è temutissima, però insomma, ragazzi, piano, adesso prima di squadra di Conte non mi sembra questa roba di grandi poeti e intellettuali del calcio. Allora, prima di andare all'altro nostro ospite, all'altro tema, vi dico subito che stiamo parlando di una importante innovazione che sta arrivando, concedendo più poteri ai sindaci, poteri di intervento nella sicurezza delle città, misure contro la movida, misure contro le manifestazioni, contro, insomma, per temperare gli effetti che le manifestazioni hanno sulla mobilità, il diritto alla mobilità dei cittadini e così via. Lasciatemi però dire ancora un paio di cosette sugli articoli di oggi, perché devo dirvi la verità, oggi io sono stato, dovessimo recuperare la vecchia rubrica di Oscar Goss, vi ricordate quando la facevamo con Alessandro Mina, ma la recupereremo, come faceva la canzone? Ecco, di Oscar Goes To, per segnalare alcuni articoli imprevisti sulla stampa di oggi, sui giornali di oggi. Io devo dirvi la verità che segnalo due cose che sono sul Fatto Quotidiano, perché c'è un pezzo imperdibile per i partiti che Adriano Celentano scrive per la pagina 2 del Fatto Quotidiano, La Lupa dei Romani. In realtà è un pezzo in cui sposa la candidatura di Virginia Raggi, bocciando la Meloni, Marchini e anche Giachetti, ma io voglio segnalare l'articolo di Adriano Celentano, che naturalmente è pieno di maiuscole, verità con la V maiuscola e così via, onestà tutto cubitale, come è nello spirito di Adriano, lo segnalo perché mi ha fatto molto sorridere. Nel qualche pagina dopo c'è un'intervista, tutta pagina, sempre sul Fatto Quotidiano, del vecchio Umberto Bossi. E perché voglio collegare i due pezzi? Perché come il pezzo di Adriano Celentano è tutto intriso di una logica pastorale, per cui dei pastori oggi non ci si può più fidare perché sono tutti un po' corrotti, ma viene la lupa dei romani, cioè appunto Virginia Raggi, allo stesso modo Bossi, che in realtà ha lo stesso linguaggio di un'Italia un po' contadina, agropastorale, rilascia un'intervista in cui è tutto col cuore in mano di fronte a Berlusconi che sta male, è solidarietà vera, umana, e anche lì usa una metafora che è contadina, perché dice: attorno a Berlusconi ormai vedo solo pecore con le zanne. Allora volevo segnalarvi questi due interventi di due, come devo dire, vecchi intramontabili leoni dal punto di vista loro, senza far paragoni. Celentano è un conto, Umberto Bossi è un altro, però vale la pena di riflettere sul fatto che loro si esprimano un po' come si esprimeva, se qualcuno di voi l'ha sentito alle 6:30, aspetta qui, Di Pietro, che non c'entra niente con tutti e due, ma anche lui un contadino, per così dire, e queste sono sopravvivenze che si vedono nella lingua, ma si vedono anche poi nello stile, nella semplicità, nella brutalità a volte degli interventi di questi tre diversi personaggi, che hanno questa cifra, secondo me, culturale che li accomuna. Ma andiamo al nostro sindaco, al nostro nuovo ospite, perché abbiamo con noi Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, vicepresidente nazionale dell'ANCI, che ringrazio di essere con noi. Sindaco per il PD, se qualcuno di voi non lo sapesse, ma Matteo Ricci è attivissimo nella comunicazione. Grazie sindaco di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Vogliamo spiegare, c'è un decreto sicurezza in arrivo da parte del governo, è un piano su cui il Viminale si è a lungo confrontato, da quello che so, con voi dell'ANCI, con i sindaci dell'ANCI, e contempla la possibilità di darvi un potere di ordinanza nella materia della sicurezza urbana nelle città, con delle disposizioni urgenti che fino a questo momento in realtà vi erano un po' precluse. Cioè viene presentato dai giornali come ordinanze permanenti per la movida, per le parti della città in cui c'è rischio per i cittadini, molestie, schiamazzi o possibilità di commettere reati dovuti al consumo di alcolici nottetempo e così via, ma a me sembra che in realtà i punti più importanti sono quelli che riguardano il DASPO per la droga, anche la possibilità che voi possiate mettere dei limiti a delle manifestazioni se non vengono più tutelati i diritti alla mobilità dei cittadini. Ci spiega un po' i punti fondamentali e quando questo decreto, secondo quel che sapete, dovrebbe entrare in vigore? I punti fondamentali sono quelli. Dobbiamo però fare una premessa, cioè la sicurezza rimarrà ovviamente una prerogativa delle forze dell'ordine dei prefetti. E dei prefetti, sì, non diventate super sceriffi. No, lo dico perché già oggi i cittadini danno tutte le responsabilità di ciò che succede in una città al sindaco, e spesso e volentieri ritengono che il sindaco abbia dei poteri sulla sicurezza che non ha. In questo caso da anni c'è una discussione, una richiesta da parte dell'ANCI, soprattutto dai sindaci delle grandi città, di poter dare ai sindaci degli strumenti in più rispetto a quelli che ci sono oggi per intervenire su situazioni di particolare disagio, situazioni diciamo di disordine in città. Il caso delle manifestazioni è uno di questi. Fino ad oggi la normativa dà gran parte del potere ai questori e non ai sindaci rispetto al tema delle manifestazioni in città. Così come sul tema della movida, che ha molto a che fare con la spinta o meno delle amministrazioni a far aprire o locali, quindi andare nell'ordine della vivacità oppure andare in un ordine contrario. Così come sul tema della droga, spesso e volentieri gli stessi vigili urbani sono chiamati a sorvegliare alcuni luoghi che in genere sono dediti allo spaccio, spesso e volentieri si chiede al sindaco di mettere delle telecamere per aiutare le forze dell'ordine in questo senso. È evidente che quella normativa che dà qualche potere in più, il famoso DASPO sulla droga ai sindaci, sicuramente aiuterà a gestire meglio le città. Lo riteniamo un passo avanti, dovrebbe essere una cosa che avverrà nelle prossime settimane, è una discussione che viene portata avanti dai sindaci ormai da anni, la riteniamo una cosa di buon senso che non cambia le competenze di fondo, ma che dà qualche strumento in più ai sindaci per intervenire. Allora, quando vogliamo spiegare un secondo, perché non a tutti è chiaro, secondo me già solo al popolo calcistico è chiaro in che cosa consiste il DASPO, però i poteri che vengono conferiti con questo nuovo strumento a voi sindaci, nel caso di spacciatori, ho letto parcheggiatori abusivi, oppure verso chi fa accattonaggio persistente, invasivo, eccetera, eccetera, il DASPO cioè significa l'allontanamento e il divieto di insistere di nuovo su aree e strade cittadine. E in questo caso però i poteri di controllo, perché questo DASPO, questa interdizione, come vogliamo chiamarla, sia poi effettivamente osservata dalle persone a cui verrà applicata, a chi staranno? Alla polizia municipale, alle forze di polizia ordinarie? Ma anche oggi, faccio un esempio, io ho fatto un'ordinanza alcuni mesi fa sul tema dei parcheggiatori abusivi. E il controllo spetta sia alla polizia municipale che alle forze dell'ordine. In questo momento lo fanno già in gran parte la polizia municipale, perché le forze dell'ordine sono impegnate, diciamo, in questioni più gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico, quindi già in parte avviene. Il problema è che, ad esempio, vietiamo l'abusivismo. L'abusivismo significa però verificare con gli occhi che uno prenda dei soldi per un'attività impropria o che venda del materiale, tant'è che una delle poche cose che possiamo fare è quella di requisire il materiale in vendita, e quindi sono pochi poi gli strumenti per i vigili urbani per allontanare effettivamente i parcheggiatori abusivi. Quindi questo decreto aiuterebbe, perché darebbe qualche elementi in più per intervenire, per allontanare chi sicuramente infastidisce le persone nei parcheggi, ma che soprattutto fa un'attività impropria, perché chi vuole parcheggiare e lo vuol fare a pagamento deve dare l'obolo al comune, non al parcheggiatore. Allora, io intanto ringrazio il sindaco Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, vicepresidente nazionale ANCI e sindaco del PD, per averci spiegato questa misura. Vedremo i muscolari sindaci del centrodestra che istituzionalmente in realtà concordano su questo, però so che alcuni di loro la considerano del tutto inadeguata, perché vogliono poteri molto più penetranti, però a me sembra un passo avanti, a dirvi la verità, e grazie quindi a Matteo Ricci. Torniamo con un nostro ascoltatore che interviene per darci un'opinione sul tema che abbiamo lanciato all'inizio della trasmissione. Non è che stiamo esagerando, montandoci la testa e annegando ovviamente negli europei di calcio, mentre insomma abbiamo un bel po' di altri guai di fronte a noi. Maurizio da Cagliari, come la pensa? Buongiorno, innanzitutto io la penso esattamente, non diciamo che il popolo italiano, secondo me in grande maggioranza, si è stancato di sentire questi problemi politici, questi problemi di pensioni, questi problemi che tanto il sistema ci sta coinvolgendo tutti quanti, che sono finiti di eroi. E io mi riferisco a qualche anno fa, dove c'è stato qualcuno che ha combattuto per il popolo. Poi, naturalmente, oggi coinvolti in questo sistema, noi assistiamo che c'è gente che guadagna 500 euro di pensione dopo 40 anni di lavoro, e c'è gente invece che dopo 5 anni ne guadagna migliaia, tipo 85.000 euro al mese. Secondo me c'è la mancanza di questa voglia di essere protagonisti, perché chi è che gli va di morire per un problema? Penso proprio nessuno. Allora ci siamo adagiati e ci rifugiamo nella partita. Poi se l'Italia vince o l'Italia perde, siccome noi sì, ma è comunque un specie di mito poiesis mentale, per così dire. Rifugiati, lei dice, usa questo verbo per esprimere questa opinione. Ho capito cosa vuol dire. Sentiamo Andrea da Piacenza. Andrea. Sì, buongiorno. Ma io sono anche d'accordo sul fatto che ci siano cose più importanti, però l'Italia è così da più di 2000 anni, da pane e mettersenses. Ma non evolveremo anche... mai, secondo lei, no? Per dire. No, non le evolveremo mai, perché intanto... Ma aspetti, io la interrompo per far capire cosa ho in mente. Cioè, in sole poche settimane, tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza, 210.000 azionisti, che sono tutti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, dipendenti, cioè un pezzo di Veneto vero, ci hanno rimesso più di 11 miliardi tra azzeramento del valore delle loro azioni e tutto il resto che è capitato in quelle due banche. 11 miliardi in 3-4 province. E lì però proteste vere, praticamente niente. Ma entusiasmo perché battiamo il Belgio. E io speso queste due cose e dico, boh, sono io che non capisco niente. Ho una teoria tutta mia su questa cosa, nel senso che l'italiano è scolarizzato un po' e un po', come dire. Si fida anche di quello che gli dicono i giornali. Se i giornali non danno risalto alla cosa, o le televisioni... Ah, bravo Andrea! Allora, questo mi piace. Questo mi piace. Questo mi piace, perché vuol dire che noi abbiamo una... Noi, nel senso che parlo a nome della casta, abbiamo una bella colpa, compreso il fatto che in pochi ci stiamo battendo perché il vertice della Consob vada a casa, come ieri secondo me giustamente ha detto il ministro Calenda. E ora è venuto il momento di rilanciare il nostro appello verso la spiaggia in cui sta Lino Milan. Benissimo, voi continuate con Radio 24, appuntamento come più tardi alle 16.30 oggi alla versione di Oscar.